un'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti anche oggi, 8 agosto, con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa, l'Europa delle opportunità, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle storie. Quattro puntate speciali, quattro puntate che ci accompagneranno in questo agosto, quattro puntate che abbiamo dedicato a quattro colonne portanti per noi dell'Europa, che sono l'inclusione sociale, che sono il green, il verde, l'ambiente anche in chiave occupazionale, l'innovazione e la puntata di oggi che è dedicata alla cultura. Come sempre con esempi pratici, esempi concreti dell'Europa che si materializza anche nel nostro territorio, soprattutto attraverso progetti finanziati dalla Commissione Europea che danno lavoro, che danno possibilità, che danno speranza. Questa è l'altra Europa, Euronet Plus R24, se volete trovarci anche su Facebook e Twitter oppure il mio account personale @FedericoTaddia, e vi ricordo anche euronetplus.eu, che è il portale del network al quale apparteniamo e che così è una raccolta di tante voci, tante inchieste, tante narrazioni diverse della stessa Europa. E narrazione è anche il punto di partenza di oggi. Digitale e lo storytelling per narrare, per raccontare il patrimonio culturale. Questo è il cuore del progetto DARTS e scopriamo di cosa si tratta. Lo facciamo insieme al senatore Alfonso Andria, presidente del Centro Europeo per i Beni Culturali di Ravello. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei. DARTS, che cos'è? In cosa consiste? Ma veda, noi siamo partiti da una considerazione, intanto siamo più partner, il centro di Ravello è il capofila di questa accordata che mette insieme due istituzioni straniere, una romena e una belga, e l'Università Telematica Pegaso italiana, accanto, ripeto, al Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, che ha sede a Ravello, nella Villa Rufolo, e che è stato fondato 32 anni fa per iniziativa del Consiglio d'Europa. Siamo partiti, dicevo, dalla considerazione che in Europa esiste una serie innumerevole di edifici storici, di contenitori pieni di storie da raccontare, di personaggi da scoprire. Il progetto che abbiamo proposto si propone proprio questo, di raccogliere queste storie, di raccontarle in un modo diverso, in maniera creativa, con un linguaggio nuovo, il linguaggio digitale, il linguaggio anche della storia tradizionale. Abbiamo colto una grande opportunità, siamo entrati nel primo ristretto novero di progetti di cooperazione europei che sono stati ammessi a finanziamento circa un anno fa, una decina di mesi fa, attraverso il programma Europa Creativa. Certo. Questo formidabile contenitore, questa grande opportunità che l'Europa ha offerto alle istituzioni culturali, fondando su un presupposto importante. Il tema della creatività è sempre stato molto presente nell'agenda europea e dunque collegare la cultura allo sviluppo è un altro questo dei temi importanti dell'azione del Centro di Ravello che sviluppiamo in partenariato con Federculture. Il binomio cultura e sviluppo, anzi la cultura come precondizione dello sviluppo. Anche e andare a mettere il naso in qualche contenitore particolare, ce ne sono tre dei quali poi riferirò se ne avrò tempo. Assolutamente, anche per sollecitare appunto possibili indotti, perché valorizzare il patrimonio culturale significa creare posti di lavoro, creare turismo, insomma creare possibilità e risorse nel territorio e non solo. E ci ha appunto spiegato come nasce questo progetto e in cosa si concretizza? Ecco, noi abbiamo preso a riferimento tre siti particolari: un castello che si trova in Belgio, Aldenbisen, sì. Un castello che si trova in Romania, che è noto come il castello della famiglia Corvin, ma forse più noto ancora come il castello di Dracula, perché si vuole che Bram Stoker abbia ispirato il suo romanzo in quel luogo, okay. E quindi il castello di Dracula, e la Villa Rufolo di Ravello. Stimoliamo la creatività, ecco il riferimento con la sua puntata sulla cultura, sull'industria culturale e creativa, di giovani tra i 18 e i 35 anni attraverso due concorsi internazionali. Il primo, che appunto si rivolge all'arte digitale e quindi invita questi giovani a creare prodotti particolari che siano puntati su questi tre monumenti. L'altro, che invece è più eminentemente riferito alla parte, diciamo, narrativa, alla storia, allo storyteller, come si suol dire, e per questo abbiamo anche scelto delle personalità nella giuria di grande rilievo. La supervisione complessiva sarà data da Michel Reilhac, che è un grande regista francese, particolarmente originale, uno storyteller transmediale francese. Che cosa faranno questi giovani? Prenderanno a riferimento questi contenitori, vi ambienteranno delle storie, le tradurranno nel linguaggio digitale nel primo caso, invece nell'altro in storie vere e proprie, e gareggeranno tra loro. Ci sarà una prima selezione per la parte digitale, per l'arte digitale, che metterà da parte 18 opere, 6 per ogni edificio, e poi una finalissima, per così dire, e risulteranno vincitrici 3 opere, una per ciascun sito. Così invece per la parte narrativa, quella dello storyteller, dove saranno scelte 3 opere, anche qui una per ogni edificio storico, che saranno premiate durante il Festival internazionale di Ravello, il Ravello Festival, mentre invece per l'arte digitale si pensa alla premiazione all'interno di un'analoga manifestazione, un festival che si tiene in Belgio, proprio in uno di questi siti, nel castello di Aldenbisen. Tutte le informazioni sul sito www.elinettadarts.eu. Se invece volete conoscere meglio le attività del Centro Europeo per i Beni Culturali di Ravello, il sito è www.univeur.org. È importante, se mi consente, prego, dare un'ultima informazione, che cioè alla votazione, che poi prelude alla scelta dei vincitori, parteciperanno anche gli utenti attraverso internet, e quindi lasceranno propri commenti e daranno un voto di preferenza ad un artista, ad uno scrittore, ad un'opera, e tutti questi voti si misceleranno, e ne terrà conto ovviamente in questo caso la giuria, si misceleranno con quelli della giuria internazionale. Un'ultima domanda, senatore, ma come mai il Centro di Ravello quanti anni fa è nato? 32 anni fa, nel 1983. E cosa spinse a fondare questo centro? Quale fu l'intuizione di partenza? Un'università europea che puntasse, diciamo, un'università stellare, dicevano i francesi, éclaté, che cioè in questa sorta di firmamento tenesse un punto di riferimento per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. Gareggiammo con Aix-en-Provence e, per la verità, offrendo il contenitore di Villa Rufolo come sede prestigiosa del centro, non fu difficile accaparrarsene la sede. sono passati 32 anni, avete mantenuto fede alla missione di partenza? Abbiamo mantenuto fede, così gli enti che ci sostengono, non potrei dire altrettanto delle risorse finanziarie che non sono adeguate alla mole di lavoro che il centro sviluppa anche dal punto di vista dell'attività formativa. In ogni modo riusciamo a tenere i nostri impegni, a mantenerli fedelmente e a sviluppare un volume di attività e una serie di pubblicazioni di altissimo prestigio, contando su una porzione di comunità scientifica internazionale che è rappresentata all'interno del comitato scientifico del centro. Questa è la cultura che produce altra cultura e che produce anche nuove economie. Tentare la carta dell'occupazione, certo, ma di un'occupazione intelligente, creativa, che punti sui talenti e che ne sviluppi il potenziale. Grazie davvero, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a lei. Adesso ci fermiamo, un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Europa Nostra Awards. Anche quest'anno torna lo European Prize for Cultural Heritage di Europa Creativa, il premio europeo più prestigioso nel campo della conservazione dei beni culturali. Avete progetti di conservazione, digitalizzazione o di formazione riguardanti il patrimonio europeo? È giunto il momento di partecipare al bando che premia le eccellenze tra architetti, artigiani, esperti di beni culturali, volontari, scuole, comunità locali, proprietari del patrimonio e dei media. La premiazione, che si terrà nella primavera del 2016, selezionerà 7 vincitori che riceveranno un premio di 10.000 euro. Per inviare la vostra candidatura, visitate il sito europanostra.org entro il 1 ottobre. L'altra Europa. Dedicata al rapporto strettissimo tra Europa e cultura, abbiamo il piacere di ospitare l'eurodeputata Silvia Costa, presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Buongiorno Silvia, ben ritrovata. Grazie a voi veramente per l'attenzione a questi temi. Ridare centralità alla cultura è la tua battaglia da tempo. Battaglia che si riesce anche a vincere, nel senso, se tu potessi fare una fotografia ora dell'Europa e della cultura, cosa vedi, cosa racconteresti? Guarda, secondo me nell'ultima legislatura, che è stata la mia prima in Europa, il lavoro fatto da noi, con direi la differenza l'ha fatta molto il Parlamento, ma devo riconoscere anche alcune presidenze turno, per esempio quella greca, ma anche quella italiana, sì, e sono state sicuramente protagoniste. Noi abbiamo avuto almeno direi tre importanti novità. Una è quella di avere rimesso, per esempio, l'attenzione al tema del patrimonio culturale tangibile e intangibile come uno degli assi di nuovo sviluppo, di crescita, di nuova occupazione e di qualità. E questo è seconda linea, vado così proprio per schemi, certo, quello di avere inaugurato la stagione che la potremmo chiamare, poi l'avete molto seguita, quella inaugurata dal Libro Verde del 2011 sulle industrie culturali e creative, certo, tutto questo filone importante che si affianca a quello più classico e più importante, e anche molto importante, naturalmente, della media cinema audiovisivo, ma con questo approccio che è molto innovativo, legato molto anche alla rete, al digitale, e che vede anche molti giovani presenti. E terzo, credo che sia stato anche molto importante il fatto che nella programmazione 2014-2020 siamo riusciti, con una battaglia che insomma ha visto anche un grande lavoro trasversale fatto in Parlamento, e devo dire molto a guida nostra, questo ci tengo a dirlo, abbiamo voluto a tutti i costi far sì che fosse reale la previsione che si fa nel Trattato di Lisbona, ovvero che la dimensione culturale deve attraversare tutte le politiche, non è solo un settore. Quindi sì, abbiamo avuto due risultati: Europa Creativa, il programma con 1,5 miliardi per questi anni, per questi 7 anni, che è stato rinforzato con un 9% in più di risorse rispetto agli altri anni, e dall'altra parte che sia nei fondi strutturali che nella ricerca, quindi Horizon 2020, ma penso anche allo sviluppo rurale e all'imprenditoria, alla cultura, le industrie culturali e creative e le digitalizzazioni del patrimonio culturale sono dentro. Questo è un punto importante, ora si sta molto agli stati e anche ai soggetti, insomma, no? Del profit e del non profit, di rispondere con dei progetti adeguati a questa sfida. Eh sì, perché poi serve la creatività giusta per questa opportunità, concretizzarla in qualcosa che dia lavoro e che abbia impatto sul territorio. E soprattutto che abbia un valore europeo aggiunto, assolutamente, quello di far circolare per gli artisti professionisti. Assolutamente, quindi la mobilità anche che diventa certo. Mobilità che sempre di più anche fatta attraverso le piattaforme online, per esempio, nel senso che uno pensa alla mobilità subito pensa all'Erasmus che è la prima cosa, però ci sono tante forme di mobilità e tante forme per fare cultura in maniera diversa. Silvia, ti porto per un attimo in Italia perché insomma il nostro patrimonio culturale è tanto e sembra quasi banale ricordarlo. Siamo bravi noi italiani a recepire queste possibilità? Riusciamo a creare nuove economie? Ma diciamo che adesso mi pare che all'attenzione del governo, e lo dico francamente che in particolare il ministro Franceschini su questo è stato sicuramente dato un impulso molto forte, c'è la volontà di fare più sistema paese, sì. Di fronte sia al fatto che noi siamo sicuramente il paese in Europa che ha la più ricca diffusione di patrimonio, diremmo che il nostro è un patrimonio appunto diffuso più che un patrimonio concentrato, questo è una grande ricchezza ma è anche una grande, come dire, possibile fragilità, perché è molto più difficile gestire, finanziare e tenere e tutelare e promuovere un patrimonio così grande. Dall'altra però mi pare che abbiamo capito che accanto al tema del restauro, della realizzazione di opere, diciamo infrastrutture, di infrastrutture materiali e materiali, per cui la digitalizzazione del patrimonio culturale, sì. Spero che a pieno titolo oggi il CNR che è capofila di molti progetti in questo campo e anche insieme a università italiane e straniere, ma anche tutto il tema degli hub, delle spin-off, insomma delle possibili nuove incubatori di impresa, acceleratori di impresa che in questo campo, anche nel campo del turismo culturale, della valorizzazione dei territori e dell'approccio integrato anche gestione pubblico-privato può dare dei grandissimi risultati. Mm-hmm. Silvia, un'ultima domanda, e mettere la cultura al centro aiuta a favorire una nuova cultura europea? Guarda, noi dobbiamo ben guardare una sfida che è tutto culturale in Europa, direi sì. Che è la sfida della convivenza. Noi siamo molto, diciamo, fieri del nostro motto, che è quello, come europei, di uniti nella diversità, e la diversità culturale, la diversità religiosa e le diversità in generale sono una ricchezza e non un limite, a patto però che non diventano frammentazione, che non diventino elementi per forme di antagonismo e di incomunicabilità e soprattutto di conflitto o di così forme tremende che ci sono in questo momento anche di, diciamo, razzismo piuttosto che di incomprensione. Allora penso che su questo noi ci dobbiamo molto lavorare, stiamo lavorando sotto due fronti, uno ed intesa anche con con l'UNESCO, anzi segnalo che a settembre noi faremo una riunione della Commissione Cultura dedicata a una audizione in cui verrà anche la Bokova, che è la direttrice generale dell'UNESCO, sul tema del dialogo interculturale e anche interreligioso e il ruolo dell'educazione. Questo ci sembra una grande sfida che l'Europa deve raccogliere, accanto a quella del come prevenire l'estremismo e le radicalizzazioni, ma anche quello che lei sa, mi ha molto appassionato e ci stiamo lavorando in questi tempi, sulla solidarietà e sull'intervento anche a livello internazionale e anche ONU, anche dopo l'incontro dell'Expo di Milano, sulla questione della prevenzione e intervento per tutelare anche il patrimonio degli altri, penso alla distruzione in Siria e in Iraq. Quindi si tratta di fare di questo una grande nuova centralità. Ecco, vorrei che la nuova revisione della strategia Europa 2020 metta questo più centrale di quanto fosse finora. Grazie davvero a Silvia Costa, Presidente della Commissione Cultura del Parlamento Europeo. Buona estate, Silvia. Grazie, buona estate a voi. When the devil's got a mortgage on your soul and the payments got you crowded to the wall, it's time to stop paying and start up praying and ask a little credit from the Lord. When you're afraid of shadows in the dead of high. Sono state abbastanza illuminanti le parole di Silvia Costa. I fondi ci sono, poi però bisogna andarli a cercare. C'è una burocrazia da affrontare sicuramente, ma credo che sia anche giusto che ci sia, quando la burocrazia è garanzia poi di trasparenza. Basta che questa burocrazia non sia una gabbia. poi servono le idee, serve la creatività. Beh, oggi vi racconteremo storie di creatività che hanno portato a vincere bandi europee, quindi a realizzare progetti su vari campi culturali, come ha fatto Imprimatur, casa editrice, se non erro, di Reggio Emilia, che appunto è partecipata a un bando europeo con un progetto chiamato Archipelagos. Con noi c'è Claudia Crivellaro, che ha ideato appunto il progetto stesso. Buongiorno Claudia. Salve, buongiorno. Allora, che cos'è Archipelagos? Archipelagos, come dicevo giustamente, è un progetto che si è classificato primo tra i progetti italiani premiati dal bando della Comunità Europea dedicata alla creatività. Sì. È un progetto di carattere letterario, naturalmente un progetto che era già nato nella testa dell'editore. Guarda, hai proprio anticipato la mia domanda, nel senso che era questa: avete visto che c'era il bando e vi siete messi lì e avete detto no, vediamo un po', no? O c'era già un'idea e si cercava il come realizzarla? Esatto, anche perché l'errore fondamentale che si fa solitamente quando si desidera accedere ai bandi è proprio questo, cioè quello di cercare il bando e poi produrre l'idea. In realtà il motivo per cui si parla di una estrema burocrazia, ma non è burocrazia, è proprio perché la Comunità Europea, soprattutto nei bandi dedicati alla creatività, ma questo vale anche per tutti gli altri settori, desiderano rafforzare e sostenere quei progetti che già sono nelle idee delle persone, che già sono in cantiere e in cui le aziende, le società e le persone già credono. Uh-huh. E tendenzialmente non premiano progetti che nascono esclusivamente a seguito di un bando uscito, ed è proprio per questo che questi progetti sono molto più veri e qualitativamente di solito molto più alti. Insomma, questo mi sembra già un'ottima dritta. E in cosa consiste il vostro progetto? Questo è un progetto che è costituito da 8 romanzi storici. Il genere del romanzo storico a livello europeo è stato scelto perché tendenzialmente il romanzo storico è quello che riesce a portare meglio la cultura degli altri paesi e all'interno dell'Italia, che è un paese purtroppo che tendenzialmente ha un'editoria molto forte per quello che riguarda i grandi gruppi, e quindi la produzione di romanzi o di pubblicazione di autori già famosi e importanti, ma riusciamo a portare pochissimo della letteratura degli altri paesi se non è già a livelli di pubblicitari molto importanti. Quindi l'obiettivo era quello di portare romanzo storico di altri paesi, quindi cultura, tradizioni, miti che noi non conosciamo e che invece sono importantissimi, e per portarli con i costi di traduzione che solitamente sono molto importanti, i costi per l'acquisizione dei diritti, un editore medio piccolo ha effettivamente delle spese importanti da sostenere. Mm-hmm. Europa Creativa si fa carico di supportare questo tipo di progetti proprio perché l'obiettivo è quello di traslare delle tradizioni o delle culture locali dei paesi europei, anche quando non sarebbe possibile farlo parlando di una normale economia, certo, editoriale. Imprimatureditore.it è il sito per conoscere la vostra casa editrice e anche i titoli ovviamente pubblicati. Sono 8 i romanzi che fanno parte di Archipelagos, se non erro. Quali sono i titoli già editi? Dunque, i titoli già editi sono il primo romanzo dalla Svezia, Handel è un destino perverso, sì, una storia di particolare follia e genialità di questo grandissimo compositore, il secondo dalla Germania, La strega di sale, uh-huh, un romanzo del Cinquecento che si svolge all'interno di una Germania scossa da paure, soprattutto legate alla stregoneria e all'inquisizione. Poi abbiamo un altro dalla Germania, Cocca imperiale, e quello che sta per uscire in questi giorni, che verrà presentato a Expo il 12 settembre, Te prometto un imperio di Juan Vilches, è un autore spagnolo molto importante, molto riconosciuto, e parla di questo grande mito della Spagna, di Edoardo e Wally Simpson. Poi abbiamo altri romanzi, gli altri 4 romanzi che usciranno da qui arrivare a febbraio provengono da Ungheria, Portogallo, sì, Scozia e Inghilterra. Quindi abbiamo cercato di abbracciare anche paesi come l'Ungheria, il Portogallo, un po' meno, esatto, un po' meno, un po', esatto, un po' meno noti dal punto di vista per noi molto meno noti, esatto, infatti. Complimenti Claudia, grazie davvero. Ricordo ancora imprimaturoeditore.it per conoscere nel dettaglio questi romanzi e questo bel progetto. Complimenti, ciao. Grazie mille, ciao. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Oggi stiamo dedicando la puntata alla cultura e uno degli aspetti che più volte abbiamo trattato in effetti nel nostro programma della cultura è conoscerla questa Europa e magari conoscerla passo dopo passo, quindi piano piano, quindi camminando. E anche per questo sono nati gli itinerari culturali europei, che sono itinerari storici che collegano più nazioni e che permettono di mettere quindi insieme culture, popoli, e di farlo attraverso il camminare, attraverso il pellegrinaggio moderno. Per parlare di questo abbiamo invitato un esperto camminatore, proprio in questo momento anche sta camminando lungo la Via Francigena. Diamo il benvenuto a Luca Bruschi dell'Associazione Europea per le Vie Francigene, giornalista e autore del libro Francigena, una strada europea dal Gran San Bernardo a Roma, che sono, beh, ce lo facciamo raccontare da lui che cos'è questo libro. Ciao Luca! Ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao, buon sabato a te. Beh, partiamo dal tuo libro, insomma, dal Gran San Bernardo a Roma, che Via Francigena hai raccontato. Allora, beh, come molti sanno, ormai la Francigena è un itinerario culturale del Consiglio d'Europa, una via di pellegrinaggio che collega Canterbury dall'Inghilterra fino a Roma, e se ne parlerà sempre di più anche nei prossimi anni, e comunque adesso con il fatto che c'era il Giubileo, ma sta anche un po' esplodendo il fenomeno, tra virgolette, della Via Francigena, e il tema dei cammini che affondano le radici nella storia dell'Europa, come hai detto benissimo tu nell'introduzione, e che ci permettono di ricostruire effettivamente il nostro passato e di viverlo nel presente, e spesso facendoci conoscere un'Europa e un'Italia non così conosciute effettivamente. Ecco questo libro che vuole raccontare la storia della Via Francigena, non è proprio per i camminatori, per i pellegrini, loro seguono già dei roadbook, delle loro guide, sì, è più che altro per le persone interessate ad approfondire alcuni aspetti culturali della Francigena, nelle 7 regioni, dal Gran San Bernardo fino a Roma. Passiamo dai castelli della Falle d'Aosta con i miti, le leggende intorno a questa cosa, alla zona del Canavese, all'Oltre Popavese, alla zona emiliana con le terre di Giuseppe Verdi e le zone termali, alla Toscana con i siti UNESCO e la cultura del cibo, fino al Lazio con la zona della Tuscia. Quindi è un modo per raccontare il cammino storico che fece l'arcivescovo Sigerico, sì, ma raccontarlo, diciamo così, in un modo moderno, per dare la possibilità comunque di scoprire il territorio che sta qui intorno. E Luca, insomma, già sfogliando queste pagine, ascoltando il tuo racconto, hai detto quello che è il cuore di questi itinerari culturali che tu conosci bene, perché tu ti occupi di progettazione europea, credo tu abbia lavorato anche un paio d'anni a Lussemburgo proprio a disegnare questi itinerari che hanno un valore culturale, ma non solo. Oggi stiamo parlando molto di indotto economico legato alla cultura. Attorno a queste strade, attorno a questi percorsi, nascono agriturismi, nascono locande, nascono gruppi di giovani che si inventano nuove forme di lavoro. È anche questo l'itinerario culturale? Sì, anche questo, detto benissimo, effettivamente è anche un'opportunità per creare delle opportunità di sviluppo nei territori da un punto di vista culturale, sociale, turistico ed anche economico, perché alla fine la cosa genera un indotto, dalla ristorazione all'accoglienza, ai servizi di trasporto, zaini per le persone che magari hanno difficoltà o handicap per poter trasportare lo zaino, o nascono delle app o sistemi di comunicazione. E oggi basta andare in qualsiasi libreria, fino a qualche anno fa non c'era nessun libro, pochi libri dedicati alla Francigena o ai cammini in generale. Oggi ci sono dei corner dedicati a questo, alla Francigena declinata sotto il profilo culturale, del cammino, gastronomico, spirituale, dei miti e delle leggende. Questo dà un termometro di quanto oggi questo tema del viaggio, che è un viaggio che fa anche sognare se vogliamo, però è un viaggio che fa scoprire lentamente l'Italia, in particolar modo fino a Roma, e poi c'è tutto il progetto che la lega verso al sud, alla Puglia, a Gerusalemme. E ti faccio un'ultima domanda. Ovviamente l'Europa finanzia questi itinerari per contagiare con lo spirito europeo. Anche questo obiettivo viene raggiunto, nel senso che questo grande cappello che è l'Europa lo si respira, lo si porta con sé in questi viaggi? Direi proprio di sì. Penso che la parola Europa è la cosa più importante in questo termine. L'Europa in questo momento sto camminando insieme a una persona della Lettonia, dell'Austria, un'altra persona italiana e uno spagnolo, ed è bello camminare condividendo la lentezza di questo cammino altre culture che però sentirsi allo stesso tempo europei. Questo, non dimentichiamo, è un itinerario che fa parte del programma degli itinerari del Consiglio d'Europa, insieme al Cammino di Santiago, più conosciuto, ma ce ne sono altri, come quello delle città storiche termali, legati a personaggi come Mozart, legati ai vichinghi, o personaggi legati all'Europa. E quindi è un progetto che fa parte di questo programma europeo che serve per ricostruire la storia, la memoria e la cultura europea. Diciamo che la Commissione europea, soprattutto attraverso finanziamenti Core FESO, che dà alle regioni, che in un qualche modo cerca di sostenere effettivamente poi quello che deve essere un po' il supporto all'infrastruttura legato a questi cammini, perché poi sono delle esigenze vere e proprie, cioè l'accoglienza, l'ospitalità, la segnaletica, il percorso in sicurezza. Quindi è importante che in ambito regionale si possono in qualche modo prendere a cuore questa cosa. C'è un esempio molto importante da citare, quello della regione Toscana, che negli ultimi anni ha investito diversi milioni di euro per l'infrastruttura, per rendere fruibile al 100% tutto il percorso. Grazie davvero Luca, buon cammino. Questi sono gli itinerari culturali, questa è l'Europa che comunque ci piace raccontare. Ciao! Grazie, buon cammino a tutti! Paperback Writer. Queste quattro puntate speciali di agosto abbiamo deciso anche di dedicarvi una rubrica particolare, che è quella di consigli di lettura, consigli di libri. Insomma, l'estate è anche un periodo dove c'è tempo per fermarsi, dove c'è tempo per riposarsi, dove c'è tempo per approfondire. Quindi abbiamo deciso di segnalarvi puntata per puntata qualche lettura, e per farlo abbiamo invitato Thierry Vissol, che è il consigliere speciale media e comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e conduttore della trasmissione Un libro per l'Europa, che potete ascoltare sul sito e sui vari social della Commissione Europea. Quindi insomma ci sembrava il massimo esperto di libri ed Europa, e Thierry Vissol è qua con noi. Ciao Thierry. Ciao Federico. Sarà il nostro contento di parlare di libri. Sì. Sarà il nostro bibliotecario estivo, ok? Veremo da te alla ricerca di dritte, di coordinate per titoli giusti. Da dove partiamo? Cosa hai scelto per noi oggi? Allora, per oggi ho scelto due libri che trattano dell'Iran, perché come lo sapete c'è stato questo accordo tra l'America, l'Unione Europea e l'Iran che mettono fine alle sanzioni con questo paese di 77 milioni di abitanti. È il primo produttore di gas, il terzo produttore di petrolio a livello mondiale, e hanno sofferto tantissimo di queste sanzioni e adesso possono ritrovare, diciamo, la comunità internazionale. Certo. E quindi ho scelto per voi due libri. Il primo è un libro che è stato scritto da Chiara Mezzalamma, che si chiama Il giardino persiano, è pubblicato da EEO Edizioni nel 2015. Sì. E questo è un libro autobiografico. Chiara Mezzalamma era la figlia dell'ambasciatore italiano a Teheran nel 1981, dal 1980 al 1984. E lei, quando aveva 9 anni, raggiunge il padre con il suo fratello e la madre e si ritrovano in un Teheran che è in piena rivoluzione islamica, in guerra con l'Iraq e quindi una situazione estremamente difficile. E lei si ritrova nel palazzo dell'ambasciata, che si trova un po' fuori Teheran, che dispone di un giardino assolutamente meraviglioso. Lei si ritrova come bambina a vivere questo giardino, le notti persiane. Sì. E tutto quello che è un mondo immaginario, come si può pensare di una bambina di quest'età, ma nello stesso tempo ha molte volte la possibilità di rendersi conto di quello che si svolge fuori, particolarmente della pesantezza, diciamo, della dominazione della società dai Pasdaran, cioè dai guardiani della rivoluzione iraniana, che hanno una visione estremamente restrittiva, diciamo, di tutto, e che obbligano la gente a non ascoltare più musica, a non vedere più arte, le donne a essere completamente sottomesse ai uomini, coperte dalla burka fino agli occhi, con a volte i guanti, eccetera. E quindi una realtà che si oppone alla realtà della magia del giardino persiano. E questo è un libro molto carino, perché nello stesso tempo fa vedere come l'Iran è un paese assolutamente meraviglioso, sia in termini naturali che in termini della simpatia e della gentilezza delle persone. Perfetto, quindi un bel libro. Un bel libro, certo, in prima persona, insomma, si entra in atmosfere e in storie di cui si sa forse non abbastanza, se non attraverso pregiudizi ho sentito dire, e qui invece si può entrare in questa realtà. Secondo titolo invece che hai scelto per noi? Il secondo titolo è veramente un classico, si chiama Alamut, la fortezza, è pubblicato da Castelvecchi nel 2013, è scritto da un autore sloveno che si chiama Vladimir Bartol, che l'ha scritto nel 1938, e questo racconta la storia di questa fortezza Alamut, che era la sede, diciamo, della setta dei Assassin, che era diretta da un tipo che si chiamava Hassan, soprannominato Seiduna, che era una figura e un profeta dei estremisti sciisti, ismailiti e nizaritti. E questo organizza una specie di armata di uomini completamente dedicato a Dio, fascinati dalla morte, soldati invincibili che controllano le loro emozioni, che obbediscono ciecamente a questo Hassan. E questo Hassan ha creato anche nel suo castello un giardino magnifico dove sono delle donne che sono delle schiavi, che sono state educate nei principi della dottrina religiosa e della sapienza erotica, e questo costituisce il paradiso per i soldati di Dio. E quindi è tutta la storia della nascita di questi estremisti che sono molto simili ai Pasdaran, perché Alamut si trova anche in Iran, e sono iraniani questi soldati. Sì. E questo Hassan. E quindi racconta un po' tutte le origini di quello che potremmo pensare che sono adesso i soldati estremisti dell'ISIS, anche se loro non sono sciiti ma sunniti. Partire da ieri per scoprire oggi, questo è un po' il significato dei due consigli di oggi, Il giardino persiano e Alamut, la fortezza. Thierry Vissol, grazie davvero, l'appuntamento è a sabato prossimo con altri consigli, sì, di lettura. A sabato prossimo. Ciao, a sabato. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. all turn known as love. You made an open child a son, made an open child a son. Promuovere la creatività come uno degli elementi di base dello sviluppo individuale e della creazione di una identità europea. Questo è uno degli obiettivi del progetto CREART, rete delle città per la creazione artistica, in questa puntata dedicata alla cultura. E ci piaceva parlarne e conoscerlo meglio nei dettagli, cosa che facciamo con Fabio Tenore, che è responsabile locale del progetto, e per locale si intende la città di Genova. Ciao Fabio, buon sabato e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, CREART, un progetto articolato che vede, mi pare, coinvolti 13 partner. E di cosa si tratta? Dunque, è un progetto di durata quinquennale, finanziato dal programma Cultura 2007-2013, quindi sì, della vecchia programmazione. Ha un budget di 3 milioni e mezzo totale e ha come obiettivo appunto quello della promozione della creatività europea attraverso l'istituzione di un sistema permanente professionale di mobilità artistica, di scambio di esperienze e di lavoro comune. Mm-hmm. Il target sono soprattutto artisti visivi, ma anche associazioni, gruppi, operatori culturali, istituzioni, pubbliche amministrazioni, ma anche università, istituti formativi a livello artistico. Certo, allora non c'è niente di più effimero della creatività, no? Per fortuna, aggiungo io. Com'è in questi anni aver potuto investire invece proprio su questo? Devo dire che l'amministrazione di Genova, in maniera un po' lungimirante, da qualche anno che ha investito sulla creatività, soprattutto la creatività giovanile, in quanto ha visto come è un settore in controtendenza rispetto alla crisi di questo periodo, quindi un settore che potenzialmente può creare nuovo lavoro, può creare sviluppo, ma anche può creare rigenerazione urbana all'interno nelle aree depresse della città. Mm-hmm. Allora, un segno forte, tangibile di questo progetto è stata l'istituzione della Giornata Europea della Creatività il 21 marzo, se non erro. Invece, azioni in corso significative che danno un'idea appunto delle possibilità di questo progetto, quali sono? Sì, allora, tutti gli anni il progetto prevede la realizzazione di una mostra itinerante che circuita per tre città partner. Sì. Proprio quest'anno una tappa della mostra sarà Genova, infatti inauguriamo questa nuova mostra il 20 novembre. La prima tappa è già stata inaugurata a Pardubice in Repubblica Ceca, la seconda sarà a Linz in Austria. Infine l'ultima tappa sarà a Genova e verrà ospitata a Palazzo Ducale al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce. Inoltre sono realizzati dei workshop con artisti famosi. Mm-hmm. E infine ogni anno vengono organizzate quattro diverse residenze per artisti in quattro città diverse, che sono Linz in Austria, Delft in Olanda, Kaunas in Lituania e Kristiansand in Norvegia. Diamo il sito per tutte le informazioni, che è www.creart.eu.org. Grazie davvero Fabio, complimenti e buon lavoro. Di questa puntata dell'Altra Europa, segnatevi queste date: 5-13 settembre 2015 sono le date in cui si terrà la 19ª edizione del Festival Internazionale Isole che Parlano, festival promosso dall'associazione Sarditudine Festival, che ha ottenuto un riconoscimento europeo importantissimo. Per saperne di più parliamo con Nanni Angeli, che è condirettore artistico del festival Isole che Parlano. Buongiorno Nanni. Buongiorno. Allora, cosa dicono queste isole? Che cos'è Isole che Parlano? Cos'è Isole che Parlano? È una storia lunga, cos'è Isole che Parlano? È un festival militante, anche perché comunque penso che la maggior parte dei festival che non godano di grandissimi contributi sono tutti quanti militanti, perché devono per forza battagliare per riuscire a mettere su un programma ogni anno con la grande voglia di continuare ad esserci. Certo, siamo a Palau, quindi siamo in un angolo bellissimo della Sardegna. Non solo Palau, sono varie le località coinvolte, vero? Sì, coinvolgiamo da qualche anno, stiamo riuscendo a coinvolgere altri comuni del Nord Sardegna, della Gallura in particolare. Concludiamo il festival sull'isola di Spaggi dell'arcipelago di La Maddalena, comune di La Maddalena. E il 5 appunto sarà l'anteprima invece nella Gallura più collinare, quindi Bortigiada, a 60 Antonio di Gallura, che ospiteranno due eventi, uno pomeridiano e uno notturno. Allora, il programma è ricchissimo e quindi vi consiglio di andare a vedere il sito, che è isolecheparlano.it. Però Nanni, invece, parlaci di questo riconoscimento che avete ottenuto. Ma è un riconoscimento a cui teniamo veramente tantissimo. In Sardegna solo altri tre festival hanno avuto questo riconoscimento, in Italia non sono tantissimi, siamo circa 700 realtà in tutta Europa. Siamo molto fieri che, nonostante le dimensioni non esagerate della nostra realtà, siamo riusciti a entrare in un network di questo livello qua. È stato quasi naturale, probabilmente, nella compilazione del bando, perché praticamente sì, era il nostro vestito, cioè quello che noi abbiamo fatto per 18 anni si richiedeva come caratteristica per poter entrare nel network. Uh-huh. Perciò, senza nessuno sforzo, penso che siamo entrati all'interno di un network europeo e internazionale di questo livello. Il network si chiama F ed è il network che racchiude i migliori festival d'Europa, migliori appunto perché c'è creatività, perché c'è coerenza, perché c'è legame col territorio. E tutto questo, insomma, è anche e soprattutto Isole che Parlano. Esatto, sì, come dicevo poc'anzi, proprio ricalca la nostra storia, nel senso che noi nasciamo come un festival radicato, con radici, perché partiamo da Palau e sempre a Palau, sia io che mio fratello Paolo Angeli, il musicista, che è condirettore artistico insieme a me, veniamo da quella realtà, abbiamo vissuto fuori ma abbiamo sempre realizzato delle cose nella nostra comunità. Perciò le radici ci sono, e la comunità dello staff, che grazie al quale dell'associazione Sarditudine, grazie al quale questo festival continua ad andare avanti, è per lo più di Palau e dei paesi dei dintorni. E questa è l'Europa, che insomma da Bruxelles si fa viva anche nel territorio, nel piccolo territorio, come ci piace ricordare tantissime volte qui all'Altra Europa. Grazie davvero Nanni, complimenti a te, complimenti a tutto lo staff di Isole che Parlano. Ricordiamo 5-13 settembre 2015, queste le date da ricordare. Ciao e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie mille. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento ovviamente a sabato prossimo. Un grazie a Carmelo Lauricella oggi alla parte tecnica, e a chi con me ha scritto la puntata: Miriam Lucchetti e Silvia Righini. Fatevi vivi, radio24.it è il nostro sito, nelle pagine dell'Altra Europa trovate tutti i contributi extra, oppure sui social network, il mio account personale @FedericoTaddia. Ancora ciao, ancora buon sabato. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.